Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, non abbiamo fatto tempo a dire ieri buon recupero di Piazza Affari, che oggi non solo si è mangiata tutto, ma anche peggio, meno 3,54%. Adesso, magra consolazione dire che Parigi perde il 2,60, Francoforte il 2,30, Londra il 2,40, l'America l'1,20%. È una magra consolazione, ma sta a segnalare un calo fin dalla mattinata, e poi con l'apertura di Wall Street le cose non sono andate meglio. Un calo, dicevo, generalizzato di tutti i listini. Chiaramente, come purtroppo avviene da mesi, perdono di più quelli europei e dell'area euro, anche se devo dire che oggi Londra non fa molta eccezione. Come avrete già capito, siccome i timori sono su quello che uscirà dall'Eurogruppo dopo il no ribadito ieri in tre diverse occasioni dalla Germania all'ipotesi di obbligazioni europee, euro bond, cioè che una parte del debito dei singoli paesi dell'euro non sia più emesso, e quindi con bot o BTP nazionali, ma con bot o BTP europei. Euro bot lo possiamo chiamare, euro BTP, va bene uguale. Da questo punto di vista, la Germania ha detto no, nonostante la richiesta arrivi da Hollande, nonostante l'Ocse, abbiamo avuto ieri per Carlo Padoan, dire attenzione, ma ci sono le condizioni per fare del debito europeo? Ci sono, perché la Germania ha, giustamente, secondo molti, forse anche secondo me, imposto a tutti i paesi europei dei vincoli più stretti sui bilanci pubblici, il cosiddetto fiscal compact, che vuol dire portare il debito in 20 anni al 60% del PIL, azzerare il deficit. Allora, una volta che tu hai ottenuto l'accordo su questo, i paesi devono trasformare in legge questo vincolo, beh, puoi anche permetterti, sei più sicuro su come gestiranno le loro finanze pubbliche, e quindi puoi anche permetterti di emettere obbligazioni europee. Ma tant'è, al di là di quello che pensate voi o che posso pensare io, la reazione dei mercati su questo è netta: temono che l'Europa sarà in stallo. Siamo sotto i 13.000 punti, Barisoni se ne rende conto? Certo che me ne rendo conto, scrive un ascoltatore. 12.983 punti in questo momento l'indice FTSE MIB, e poi si segnala una vera e propria fuga degli investitori in questi anni dai titoli italiani, dal debito italiano, e cioè per quello che riguarda la fuga, siamo a una quota del debito italiano detenuta dagli stranieri, che era una quota significativa, metà del nostro debito era in mano straniera, adesso è scesa al 32%, dal 50 al 32%. Questo vuol dire che quasi uno su due, un po' di meno, hanno venduto bot e BTP italiani. Perché? Perché i grandi fondi di investimento, fondi pensione giapponesi, fondi pensione canadesi, fondi di chi volete voi, non si fidano più a tenere debito dei paesi a rischio, perché non sanno come finirà questa vicenda. Ancora, per quello che riguarda l'euro è l'ennesima cartina tornasole di quanto sta capitando oggi, è a quota 1,25, quindi se ricordiamo che meno di un mese fa era ancora stabilmente a 1,30-1,31, siamo a 1,25. Ripeto, come dico spesso, a me l'euro, finché non va 1-1, è sempre troppo forte sul dollaro, e anche 1,25 è forte, però c'è una chiara reazione. Di questo parleremo in apertura, e poi avremo chiaramente anche i nostri temi, il ritorno dell'appuntamento Disperati Mai, le lettere che scrivete, che abbiamo invitato gli imprenditori in difficoltà a scrivere all'indirizzo disperatimai@radio24.it, e anche la vicenda Fiat. Vediamo se riusciamo a fare anche Facebook. Oggi maretta sul titolo, addirittura molti risparmiatori americani iper arrabbiati hanno detto che faranno una class action sulla banca che ha deciso il prezzo di Facebook, prezzo risultato oggettivamente troppo alto. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Sì, sì, confermo, chi ce lo chiede, gli azionisti di Facebook hanno già avviato un'azione legale contro la stessa Facebook, contro Mark Zuckerberg, che è il fondatore e il più giovane miliardario al mondo, e anche contro Morgan Stanley, oltre che le tre banche che hanno sottoscritto l'offerta. Ne parliamo più avanti. Comunque, i titoli, beh, vanno malissimo oggi i bancari. Monte dei Paschi meno 7,60, Popolare Emilia Romagna meno 6,70, Popolare Milano meno 6,30, e ancora UbiBank meno 5,40, Mediolanum meno 5,50, Banco Popolare meno 5,20. Chiudo sul fronte bancario con Mediobanca che perde 4,13%, e Intesa San Paolo che contiene il calo. A me fa ridere dire questa cosa quando perdi il 3,80%, però tant'è, ormai ci siamo abituati. Cioè, ma se 5 anni fa avessimo commentato una giornata del genere, avremmo fatto una puntata solo di borsa. Adesso sì, diventa un pezzettino di Focus Economia. Ci si abitua a tutto nella vita, o quasi tutto. Buzzi Unice meno 7,12%, Ansaldo meno 6,20, Pirelli meno 6,20, Fiat meno 6,1, Diasorin meno 5,1, Finmeccanica meno 5, Parmalat meno 5, Saipe meno 4,31, Prismia meno 4, oh, non si salva niente oggi, è Telecom meno 4, Impregilo meno 4, Generali meno 4, Tenaris meno 3,5, Autogrill meno 3,5, come Exor, Eni perde il 3%, Atlantia il 3, Mediaset il 2,90 e l'Automatica pure. Il miglior titolo, tra virgolette, sicuramente è STMicroelectronics più 1%, A2A che si comporta bene perché è invariata, e Fiat Auto più meno 0,40 nel giorno in cui ha annunciato l'accordo per produrre una nuova Spider, un accordo, vedremo, adesso ne parleremo nel corso del programma, un accordo comunque importante con Mazda. Oro in calo a $1,555 all'oncia, petrolio in calo a $91,48 al barile. Il petrolio a New York ha registrato i minimi da novembre, a segnalare che nemmeno chi scommette che altre economie tireranno ha più voglia di esporsi. Allora, Barisoni, dei nostri guai l'unica che se ne avvantaggia è la Germania, che continua a rifinanziarsi a tassi ridicoli. Allora, non voglio dire che la Germania goda, però è indubbio che in questo momento la Germania, grazie alla debolezza degli altri paesi europei, può fornire prestiti alle sue imprese e ai suoi cittadini a tassi ridicoli, è vero. Lo 0,02% il rendimento del bot a un anno, cioè praticamente conviene chiedere i soldi in Germania piuttosto che metterceli di tasca propria, perché se hai tassi negativi con l'inflazione a 3, se ti costa l'1-2%, ti conviene chiedere soldi in prestito. Mi chiedete se stasera annunceranno l'uscita della Grecia dall'euro. No, non che ci risulti, non è che ci collegheremo anche con l'Eurogruppo. Ma insomma, adesso andiamo avanti con gli altri temi. Il Parlamento europeo ha detto di sì alla Tobin Tax, ora la parola passa al Consiglio europeo. Per quello che riguarda l'Italia, l'ISAT fotografa una fiducia dei consumatori che ha toccato i minimi dal 1996. Che non è un anno a caso, è l'anno di inizio delle serie storiche, quindi non sappiamo se in realtà sia ai minimi dal 72 o dall'84, è ai minimi da quando esiste l'indice, cioè dal 1996. Il tema esodati. Allora, il ministro Fornero dice: ho già inviato a Monti il decreto sui 65.000 esodati, che sono solo una parte di tutti gli esodati, cioè di chi si è trovato con la riforma delle pensioni senza lavoro perché aveva accettato lo scivolo, e senza pensione perché gli hanno allungato la data, cioè gli hanno alzato l'asticella. E dice appunto il ministro Fornero: per me una parte della partita è chiusa. Nel frattempo il governo si è assunto l'impegno in commissione lavoro al Senato a rendere obbligatorio il fatto che a parità di ruolo uomini e donne dovranno avere lo stesso stipendio entro il 2016. Mi sembra forse la legge più inutile del mondo, cioè dovrebbe già essere così, sappiamo che non è così, ed è una sconfitta che ci debba essere una legge per dire che se io faccio lo stesso, svolgo la stessa funzione e ruolo di una donna, lo stipendio deve essere uguale. Una notizia ancora per quello che riguarda la previdenza integrativa. I rendimenti dei fondi pensione nel 2011 sono stati inferiori alla rivalutazione del TFR al 3,5%. No, lo dico perché, col massimo rispetto per chi fa il gestore di fondi e quant'altro, che viene qua anche spesso a spiegare con aria e con inglesismi molto acuti cosa dovremmo fare dei nostri soldi, finché i fondi pensione rendono come gestione meno della normale rivalutazione del TFR al 3,5%, cioè avete poco da tirarvi. Allora un applauso a tutti i gestori dei fondi pensione che non sono riusciti nemmeno a fare quello che ha fatto la normale rivalutazione del TFR. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, che continui la crisi lo si capisce anche dai boom dei negozi compro oro. Ce ne occupammo anche, se non ricordo male, un anno fa, perché più di un anno fa, meno di un anno fa, mi dicono dalla regia, ormai la memoria mia è affidata dall'altra parte del vetro, meno di un anno fa ci occupammo di questo fenomeno. Secondo un'indagine dell'ADOC, nell'ultimo anno sono aumentati del 15%. Solo a Roma ci sono 250 negozi compro oro, più 20%. Sono 5.000 negozi in Italia. I motivi sono duplici: la crisi, questo ce l'abbiamo tutti, ma anche i record toccati dal prezzo dell'oro, che è un po' ridisceso, ma vale ancora il 160% in più rispetto a 5 anni fa. Forse i gestori di fondi pensione dovevano investire in oro e avrebbero fatto risultati migliori del TFR. Enorme il giro d'affari, praticamente sono 350.000 euro l'anno. Come flusso, ogni attività genera come flusso economico, il che vuol dire sostanzialmente muovere 2 miliardi di euro l'anno su tutto il territorio nazionale. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Oh, vi ricordate la polemica che involontariamente abbiamo fatto con i presidenti della provincia di Trento e di Bolzano e quindi dell'AE e Drumwalder, come esempio del perché un presidente di una provincia ce l'ha anche podestà qui, debba avere un Audi A8 340 cavalli, 4.000 di cilindrata? Non capivamo perché non bastassero modelli un po' inferiori se fai il presidente della provincia con targa della protezione civile. Beh, pensate un po' questa: il partito che è il partito anche di Drumwalder, cioè Südtiroler Volkspartei, è talmente a corto di soldi, ha un indebitamento di 3.600.000 euro, alla faccia, diciamo, dell'efficienza dell'Alto Adige, siccome il governo Monti sta varando il taglio del finanziamento ai partiti, dovrà rinunciare quest'anno i rimborsi elettorali a 360.000 euro. È entrato in crisi anche perché il segretario amministrativo ha dimenticato di presentare per tempo la richiesta di rimborso per le spese elettorali, e quindi c'è stato un errore umano. E allora che è successo? La direzione della Volkspartei ha deciso oggi che i deputati, i senatori e l'unico europarlamentare che hanno dovranno sborsare di tasca loro 100.000 euro a testa, cioè a testa in tutto, scusatemi, anche perché ne ricevono più o meno una cifra analoga di diarie, 100.000 euro per risanare il partito. Il gesto è molto importante perché vuol dire chiamare i deputati, i senatori e l'europarlamentare a finanziare le casse della Volkspartei. Però due battute, permettetemele: potrebbero chiedere ad Drumwalder di ridare la macchina, lui ha pure una bella macchina, 4.000 euro di cilindrata. E dico, io capisco il bisogno di autonomia, ma siete così sicuri, visto che non riuscite neanche a gestire il partito, a fare le richieste, che l'Alto Adige autogestito sarebbe così meglio dell'Alto Adige italiano? Non lo so, ma un applauso lo voglio dare al presidente della provincia di Gorizia, Enrico Gherghetta, che ha annunciato di aver devoluto alla Caritas diocesana di Gorizia parte della propria indennità di fine legislatura. Andranno 12.000 dei 21.000 euro, e comunque insomma è un gesto importante. Oddio, c'è un bel maschietto che mi scrive: Barisoni, lo stipendio tra uomo e donne dovrebbe essere uguale non a parità di funzione ma di rendimento. Sì, vabbè, però intanto facciamo che è uguale a parità di funzione, di ruolo,

c'è tutto sommato ancora un apprezzamento della parte privata di questo paese, cioè delle aziende medio-grandi che nonostante la crisi stanno dando comunque un contributo importante allo sviluppo dell'economia. E dall'altro invece c'è una straordinaria e grandissima preoccupazione per tutto l'apparato pubblico italiano, sia perché è un apparato che mangia risorse e distrugge la ricchezza che in qualche modo viene creata dall'altra parte, sia perché è così malfunzionante che in realtà si ha quasi l'impressione che invece di favorire le aziende, le imprese, le intraprese, sia quasi lì per respingerle. Tant'è vero che gli stranieri in Italia ormai da tempo investono non poco, pochissimo, praticamente nulla, e non perché c'è un governo, quell'altro, quest'altro, ma perché il sistema non attrae nulla. Allora, vediamo se riesco ad allargare la domanda, Presidente Rosa. Che cosa temono le banche non europee dell'area euro? Perché insomma qui il problema è che perde il 2,5-2,7 anche Parigi, Francoforte, non è che siamo solo noi. Cioè, che cos'è che non piace quando lei sente i suoi associati che si chiamano JP Morgan, Merrill Lynch, che cosa, a parte chiedergli quanto, che bonus hanno? No, questo non glielo chiede, no? No, quello glielo chiediamo e mi spavento io stesso quando mi rispondono. Ma a parte chiedere questo, che cosa, che giudizio sente dare da chi poi deve decidere se spostare un investimento anche di medio termine, non parlo solo di investimenti speculativi, ci mancherebbe, dall'area euro all'area yen, all'area dollaro, quant'altro? Sa, è la grande paura, l'incapacità, l'impossibilità di leggere il futuro dell'Europa. Questo è il problema fondamentale per gli operatori finanziari e gli investitori esteri. Oggi non sono in grado, perché non lo siamo noi in prima linea, di capire che cosa sarà l'Europa non solo oggi, ma domani e dopodomani. Questo attiene, primo, al dubbio che ormai si è instaurato dappertutto se l'euro terrà o non terrà. Secondo la mia personale opinione, l'euro dovrà tenere, ma però obiettivamente ci sono le condizioni per poterne dubitare. E la seconda è questa filiera decisionale così difficile, burocratica, lontana dalla realtà di Bruxelles, dell'Europa, che impedisce in realtà di stabilire con una qualche precisione, una qualche determinazione qual è l'Europa economica e politica che noi vogliamo per oggi e per domani. Questa è la situazione di grande incertezza che spaventa moltissimo i nostri amici d'oltreoceano. Allora, dopo la vorrò sentire anche sulla Germania, fermo restando che lei ha molti associati anche tedeschi, certo, quindi deve rappresentare tutti, però se questo atteggiamento tedesco, come Obama ha ricordato, spaventa. Però lei si chiede, lei diceva, insomma, gli investitori, le banche straniere non sanno che fine farà l'Europa. E io invece a questa domanda vorrei che rispondesse Adriana Ceretelli: che fine farà l'Europa, Adriana? Una bella domanda. E beh, fai la corrispondente da Bruxelles, insomma, metterci sopra un po' di soldi. No, dunque, il buon senso dice che l'Europa ce la farà. Guardando invece la cronaca e quello che succede, i dubbi sono più che legittimi. Voglio dire, a poche ore dall'apertura del summit di stasera è stato addirittura reso nota questa cosa, che per un certo verso è logica ma che per altro verso spaventa i mercati e spaventa tutti noi, che è quella per cui la task force dell'Eurogruppo ha incaricato i singoli tecnici dei vari paesi a dettagliare quelli che potrebbero essere i costi di un'eventuale uscita della Grecia dall'euro. No, ridimmela questa, scusami Adriana. Allora, lunedì c'è stata una riunione dei tecnici del Tesoro che partecipano a questa task force dell'Eurogruppo. Certo. Al termine di questa riunione i singoli paesi, i singoli tecnici dei vari paesi sono stati incaricati di, in sostanza, prepararsi all'uscita della Grecia dall'euro, nel senso di calcolare i costi che un'eventuale uscita della Grecia avrebbe su ciascun paese dell'euro. Ora, naturalmente, questo non vuol dire che la Grecia uscirà, però il fatto che ci si cominci a preparare naturalmente non è un segnale. Poi queste voci girano, no? La gente mormora e i mercati vendono. E poi al tempo stesso lo stesso Papademos, cioè il premier che uscente dopo le elezioni, proprio oggi ha dichiarato che potrebbe accadere che la Grecia esca dall'euro. Cioè, sono tutti segnali che certamente non tranquillizzano nessuno men che meno i mercati, ma anche i cittadini naturalmente, e che non fanno bene alla, diciamo, alle prospettive di questo vertice, perché doveva essere il vertice della crescita, non è ancora cominciato, comincia alle 8, ma è molto probabile che alla fine si occuperà di emergenza greca un'altra volta, si occuperà del problema delle banche spagnole e poi anche di crescita, ma sulla crescita ovviamente è più difficile discutere perché il disaccordo franco-tedesco è diciamo abbastanza conclamato, insomma, clamoroso. Guarda, rubo una battuta a un ascoltatore che dice: non è credibile una Grecia senza l'euro, ma è credibile una Grecia senza un euro? Perché il tema che vorrei affrontare dopo anche con te e con Rosa, dopo il meteo, è: va bene, adesso dopo 2 anni forse arriveremo all'espulsione della Grecia, che se ci costa, l'avessimo fatta 2 anni fa, risparmiamo almeno 1.600 ormai miliardi di capitalizzazione bruciata in borsa. Ma decidevamo un percorso, la sospendiamo. Tanto ci arriviamo nel modo peggiore, perché la cosa peggiore è quando rompi un matrimonio, come in questo caso, così, perché volano i piatti. Molto meglio deciderlo prima, con calma, in maniera consensuale. Qui stiamo arrivando veramente agli stracci, con l'estrema sinistra e l'estrema destra che aumentano dovunque. Vorrei capire una cosa: so che alcuni diranno che è una mia fissazione, e mi sono fissato sulla Germania, perché ritengo che sia in questo momento l'elemento di ostacolo a una soluzione. Non ha creato la crisi, ma ha una grossa responsabilità in come la crisi si sta avvitando su se stessa, e vorrei sapere la tua opinione. Perché io questo isolamento tedesco al G8 di Camp David non l'ho visto, ho visto dei gran maglioncini, delle gran camminate, non ho capito nulla di quello che abbiano deciso, forse perché sono stupido io, forse perché hanno deciso molto poco, in compenso il prato di Camp David era molto carino, e vorrei sapere dal presidente Guido Rosa e da te se in qualche modo la Germania potrà cambiare idea, è un mio chiodo fisso, oppure tanto la forza tedesca è tale che va a rompere sulla Grecia, va a rompere su tutto, e tira dritto con i tassi di interesse ai minimi storici praticati dalle sue banche. 349-238-6666 per i vostri sms der Traffic. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, una risposta a qualcuno da Trento, che amico di Dell'Ai, se l'è presa, perché da 2 o 3 giorni stiamo parlando delle automobili del presidente della provincia, tra cui Dell'Ai, Dunvalder. La ricordiamo a Trento a soldo della Serenissima a sponsorizzare la Val d'Astico? No, semplicemente ritengo che sia un'autostrada importante, il progetto è fatto molto bene, e per qualche ambientalista così che si mette di traverso non sversi un po' di traffico che va da Venezia fino a Milano. Sono assolutamente a favore della Val d'Astico, sono disposto a dirlo quando volete, così come della TAV e così come di qualunque opera infrastrutturale che serva e che ci porti avanti. Secondo aspetto invece, e comunque a Trento ci saremo, se vuole tornare a salutarci, per il Festival dell'Economia, cos'è, giovedì prossimo e venerdì prossimo, cioè non domani, non in questo weekend, ma quello dopo, la settimana dopo. Allora, leggo dal Sole 24 Ore del 19 maggio un pezzo analisi a firma di Adriana Cerretelli. La Grecia, fanno un calcolo di quanti soldi ha ricevuto la Grecia e quanti aiuti ha ricevuto la Germania, sentite. Allora, la Grecia di aiuti tra i due programmi ha ricevuto meno di quanto promesso, sostanzialmente, perché ha ricevuto 75 miliardi dei 130 inizialmente stimati, poi nel marzo scorso un secondo piano da 172 miliardi, finanziato però da garanzie del fondo IFSF, per cui non ha sborsato. La Germania sostanzialmente ha sborsato poco ed era il paese che con la Francia più soldi aveva prestato ai greci, che adesso puzzano, sono brutti, olivastri, ma prima andavano benissimo se bisognava vendere sommergibili, pagare tangenti e prestare soldi alla Grecia con le banche tedesche. I tedeschi hanno pagato 15 miliardi. Ma la cosa interessante e bellissima è questa. Sapete quanti soldi Berlino ha dato alle sue banche in questi 4 anni, così chi continua a rompermi le scatole che ce l'ho con la Germania va a studiare e forse si rifà un'idea? Ha dato 620 miliardi. Cioè Berlino, la rigorosissima Berlino, quella secondo cui i greci possono perire ma devono rispettare i compiti, ha salvato le sue banche con 620 miliardi e la Commerzbank, che è una banca tecnicamente fallita, così Rosa adesso mi è obbligata a sconfessarmi, è stata salvata dall'intervento di Mario Draghi. Allora, Adriana Ceretelli, dammi da 1 a 10 le chance che la Germania cambi idea. Beh, sugli Eurobond no, l'hanno già detto chiaro e tondo, quindi su quello non cambiano. Sul resto, per esempio sull'aumento del capitale della Banca Europea degli investimenti, probabilmente sulla riallocazione dei fondi strutturali, sugli stessi project bond che potrebbero essere lanciati con la garanzia del bilancio europeo, su queste cose probabilmente da qui a giugno qualche passo in avanti sarà fatto, ma sugli Eurobond no di sicuro, perché, e io in questo non riesco a dar torto ai tedeschi, cioè in questo momento i divari tra le economie europee sono ancora troppo accentuati per potersi immaginare di emettere bond, quindi diciamo fare debito avendo alle spalle un retroterra di questo genere, cioè sotto questo aspetto non li si può accusare, li si può accusare di altro. E poi volevo scusami una precisazione, quei 620 miliardi non sono soldi sborsati, sono garanzie. Ho capito, ma che sono le stesse garanzie che sono previste dal fondo salva stati, no, assolutamente hai ragione, però ecco, siccome qua c'è chi ritiene che la rogna ce l'abbiano, 15 miliardi sono stati versati perché quelli nel primo piano erano soldi tirati fuori. Adriana, no, io citavo il tuo articolo per dire che siccome si pensa sempre che tutti gli altri abbiano le pezze, diciamo, le parti più intime, e la Germania sia invece il paese del rigore. Attenzione che le banche tedesche hanno dovuto ricevere in garanzia 640 miliardi e che nessuno mi toglierà mai dalla testa che quando Mario Draghi ha fatto la prima tranche dell'operazione da 500 miliardi, l'obiettivo era salvare Commerzbank, perché era 3 giorni che si diceva che la banca tedesca, una grande banca europea, sarebbe fallita e tutti guardavamo a Commerzbank. No, Rosa, non è, sa che non è quella? Qual è Rosa? No, sono d'accordo. No, venga. Al microfono. No, ma allora la questione della Germania è vero, adesso al di là di ogni cosa c'è questo 600 e rotti miliardi di garanzia, ma sono stati anche ci sono stati anche degli interventi e sostanziali in cash per le banche. Tra l'altro, altro tema sul tavolo che non è ben chiaro, come poi questi soldi, quelli che sono stati versati in cash, rientrino nel debito pubblico ufficiale tedesco, che è un altro problema contabile. Comunque, al di là di questo, per rispondere alla domanda che ponevi, certo sì, che la Germania è ostile agli Eurobond, e finora la Germania da questa situazione ha avuto solo vantaggi, un euro debole e una capacità di rifinanziarsi, come già stato detto, a zero. Oltretutto, se si emettono degli Eurobonds, è chiaro che gli Eurobonds avranno un pricing unico. Questo significa che la Germania, a quel punto in linea teorica, non si potrebbe più rifinanziare a zero di tasso, ma probabilmente al tasso medio ponderato, ecco, dei rischi europei. È chiaro? Quello. Allora, traduco. Il problema è che se tu emetti delle obbligazioni europee, Adriana, su questo non facciamo sempre però che i tedeschi sono solo per puri e duri, duri sicuramente, ma e noi siamo tutti lì lazzaroni, trafficoni. Il problema è che in questo momento gli imprenditori tedeschi e la Germania si finanzia emettendo bund, e i bund valgono 0,4. Se tu fai un euro bond, sarà la media più o meno dei rischi europei e quindi varrà 3, 4, 5% e toccherà anche ai tedeschi dividere quello che è il costo del denaro nel resto d'Europa, non trovi in una battuta? Ma certamente, ma voglio dire, questo è un'ovvietà, l'hanno appena dichiarato lo stesso premier finlandese e il premier olandese, dicendo noi non intendiamo rimetterci quando ci dobbiamo andare a finanziare facendo gli eurobond, perché noi paghiamo di meno e se facessimo un eurobond pagheremmo di più. Allora, questo ognuno qua sta pensando ai casi suoi, hanno ragione i greci a questo punto. Secondo me c'è dietro un problema strutturale. È vero che in questo momento, con diciamo l'eterogeneità e la disparità che c'è oggi in Europa, mutualizzare il debito per i paesi che stanno meglio è un rischio gravoso, perché in realtà tu ti prendi sulle spalle i problemi degli altri. Questa sarebbe l'Europa, ma non è sì. più questo il sentimento. Oh, che allora diciamola l'Europa. Tutta con una provocazione. Non c'è più l'Europa. Se è così, Adriana, non c'è più l'Europa. Quando la Germania questo, chiese di unire... No, no, dico, capito, ma senti, qui tu lo sai perché ci vivi in mezzo. Noi qua arriviamo un po' dopo le cose. Ma quando la Germania, grazie all'operazione di Kohl, chiese ai paesi europei di fare un'operazione di unione Germania Est, Germania Ovest, c'era molto di più l'Europa di quanto non ci sia adesso, perché tutti le diedero l'ok e la Germania per fare quell'operazione spese 1.600 miliardi di euro, che vogliono dire una cosa adesso inimmaginabile con il fiscal compact. Allora, ho il traffico der Werker, mi sembra che si dica, abbiamo forse controllato, mi sto abituando perché non si sa mai, no, che poi Radio 24 possa diventare ancora più rigorosa. Traffico. Focus economia. Barisoni, smettila di fare programmi alla Grillo, come se fosse un'offesa. La gestione del tema della crisi greca è ridicola. Se i greci si fossero comportati come i tedeschi, non staresti a dire queste scemenze. Allora, siamo d'accordo, abbiamo fatto intere puntate per ricordare in che stato fosse la Grecia e come quel paese andasse sostanzialmente commissariato, cioè non ti puoi più gestire da solo, e non è che noi in Italia abbiamo dato esempi molto più fulgidi in questi anni. Ma una volta che io ti commissario, una volta che ti punisco, devo anche umiliarti? Ti do la possibilità di studiare? Oppure diventi un asino che metto nell'angolo e gli dico adesso stai in ginocchio sui ceci finché non ti fa male? Questo sto chiedendo io, perché in questo modo stai facendo saltare l'intera classe, non solo punendo l'asino. Non so se l'esempio è chiaro. Qui sta saltando meno 3,70% oggi il mercato, ok, con tutti i bancari che hanno fatto, per i timori che l'euro non terrà, meno 8% Monte dei Paschi. Io devo fare questo perché la Germania ha l'incubo dell'inflazione, perché pensa, sbagliando, che sia arrivato Hitler per colpa dell'inflazione? Ma che me frega? Oh, è avere l'euro più forte del dollaro perché i tedeschi gli fa comodo così? Allora facciamo che tutti quanti entriamo in Germania, allargano i confini e così finalmente ce l'hanno fatta. Rosa, adesso sto zitto. Prego. No, niente, volevo ritornare sulla Germania, che sembra essere il tema. Naturalmente è del tutto condivisibile quello che ha detto la giornalista, che naturalmente ci sono delle tali e diversità di economie in Europa che è veramente impossibile pensare di avere una finanza che sia universale rispetto a dei paesi. Oltretutto c'è anche da dire che naturalmente l'emissione degli eurobond, in questo i tedeschi hanno ragione, sarebbe un po' un salvacondotto per chi invece deve essere obbligato a continuare a mantenere un rigore di bilancio, cioè sarebbero meno indotti al rigore di bilancio che invece comunque bisogna perseguire. Detto questo, dicevo naturalmente che il vantaggio della Germania è evidente, ma non con una connotazione negativa, ma che è un fatto assolutamente evidente, obiettivo, è lì da leggere e quindi bisogna partire da quello. Sono anche convinto che però prima o poi ci sarà un qualche tipo di modifica di atteggiamento da parte della Germania. Lei mi deve dire, visto che rappresenta tutte le banche straniere in Italia, se ritiene che l'euro terrà, o come l'abbiamo visto fino adesso, oppure no? L'opinione prevalente è che l'euro terrà, non c'è possibilità di tornare indietro. Adriana, dammi una speranza. Se vuoi, non è che non sei obbligato. In che senso una speranza? No, una speranza. Che l'euro tenga? Sì, su questo Eurogruppo, perché i mercati oggi non ci sperano. L'euro 1,25. Però non dimentichiamoci che i mercati speculano sulla caduta dell'euro, è normale. Però sai come si dice, gli avvoltoi si muovono dove c'è la carcassa, non dove c'è il leone vivo. Assolutamente. No, io lo dicevo prima, con il buon senso e la razionalità ti devo rispondere che l'euro terrà. Perché sarebbe un tal disastro che penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso eviterebbe sia l'uscita della Grecia dell'euro, sia appunto qualsiasi prospettiva di destabilizzazione dell'euro. Purtroppo però abbiamo non solo forti dissensi in Europa su quello che si deve fare, ma non abbiamo dei leader, e che quindi gente che abbia il coraggio di prendere decisioni anche impopolari nei rispettivi paesi. È questo il male dell'euro, per questo si è perso il senso dell'Europa in Europa, e quindi è il clima che fa da contorno alla crisi dell'euro la cosa più preoccupante, la crisi politica dell'euro il problema, non è la Grecia. La Grecia Ma brava, ma basta con sta Grecia. Ma vale l'export, la Grecia vale l'export della provincia di Vicenza. È due anni che ci stiamo smazzando questa Grecia come se fosse e sta precipitando tutto per colpa dei greci che hanno truccato i conti, e vabbè, gliel'abbiamo detto mille volte. Ma perché abbiamo ingigantito un problema, come quando la coppia di cui parlavo prima, invece che risolvere il problema del tappo del dentifricio, va dall'avvocato e fa un divorzio. Stiamo facendo così in Europa. Grazie Guido Rosa. Grazie a voi. Presidente dell'Associazione delle Banche Estere in Italia. Grazie Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, bravissima come sempre. Il GR, poi la borsa, meno 3,70% a Milano e meno 2,40% a Francoforte. 349-238-6666 per i vostri SMS. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, Fiat e Facebook bastano del vertice Eurogruppo della Germania, non parlo più, ne va delle mie coronarie. Allora, come sempre Guido Maurino, o meglio come sempre Radio Coro, il Sole 24 Ore, nella persona di Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Delle borse abbiamo detto ampiamente, cito solo il dato, meno 3,70 nel finale, meno 2,60 Parigi, meno 2,30 Francoforte, meno 2,50 a Londra, meno 1,5 l'America, timori dell'uscita della Grecia. Prima Adriana Ceretelli ci raccontava che gli uffici tecnici stanno già lavorando all'ipotesi e questo è il timore che il vertice di questa sera, che doveva essere quello per il rilancio dell'Europa, si trasformi in un flop, cioè di nuovo a parlare della Grecia. Particolarmente male le banche, lo spread italiano è a 430 punti base. Adesso io le banche le leggo velocemente, tu magari mi commenti altri titoli perché lì c'è poco da commentare. Monte dei Paschi meno 7,60, Popolare Emilia Romagna meno 7%, Popolare Milano meno 6,90, Banco Popolare meno 5,70, Ubibanca meno 5,60 e ancora Mediobanca meno 4,5, Intesa meno 4,5, Intesa San Paolo, Generali meno 4,30%, Unicredit meno 3,21%. Male però anche Pirelli meno 6%, e abbiamo visto anche Parmalat scivolare non poco, meno 5%. Pirelli e Parmalat. Sì, il titolo Pirelli, come avevamo già detto spesso, è salito molto nella prima parte dell'anno, aveva registrato un balzo del 25%, poi nelle ultime settimane aveva un po' ritracciato i suoi pesanti cali di borsa. Pirelli in modo particolare ha fatto meglio di tutti i competitor, ad esempio di Michelin, per cui per gli operatori è abbastanza normale che a questo punto non ci siano più ulteriori margini di crescita e anche gli analisti stanno un pochettino rivedendo i loro prezzi per quello che riguarda Pirelli. Oggi ce n'era uno in modo particolare, che è quello di Goldman Sachs, che si è espresso sul titolo e si spiega soprattutto in questi termini il calo di oggi del 6,06%. Per quello che riguarda invece Parmalat, si tratta un pochettino di una bocciatura rispetto all'acquisizione annunciata ieri. Parmalat comprerà Lactalis Stati Uniti, quindi la divisione americana del suo azionista di maggioranza, un'operazione infragruppo che per Parmalat costerà particolarmente cara, secondo quanto circolava oggi nelle sale operative, visto che la valutazione è di 904 milioni e 9,5 volte il margine operativo lordo, che è un valore piuttosto alto. Tuttavia apre comunque uno scenario potenzialmente interessante, perché Parmalat si apre sul mercato degli Stati Uniti e sui formaggi che hanno una marginalità più alta rispetto al latte, dove c'è più pressione competitiva. Sì. E poi tu citiamo anche chi oggi meglio è andato. ST Microelectronics ancora molto bene ieri, lo ricorderete, per la joint venture. ST Microelectronics ha una joint venture con Ericsson ed è stata scelta da Samsung per equipaggiare gli smartphone. Ma anche Fiat Auto più 0,21%. Qui c'è un accordo e ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento anche Andrea Malan del Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Qui c'è un accordo annunciato che è il motivo per cui il titolo Fiat oggi va bene, perché quando tutti perdono 3, 4, 5, 6, 7 tu fai più 0,21, averne di giornate così. Fiat e Mazda cosa costruiranno assieme e per quali mercati? Andrea. Dunque, verrà costruita una Spider a motore posteriore nell'impianto giapponese di Hiroshima della Mazda, che avrà per quanto riguarda il gruppo Fiat il marchio Alfa Romeo e rilancerà, diciamo, dopo 20 o 30 anni quella che era la mitica Duetto, che ebbe tra l'altro un grande successo negli Stati Uniti. È proprio quello degli Stati Uniti l'obiettivo principale di Fiat, quindi questa non è una joint venture, questo accordo produttivo che assomiglia un po' a quello che la Fiat stessa ha con la Ford per produrre la Ka, cioè in sostanza l'auto verrà prodotta in Giappone nell'impianto giapponese. Questo accordo mette, diciamo, un ulteriore tassello in quello che sarà il ritorno dell'Alfa negli Stati Uniti. Ricordiamo che dovrebbe unirsi a questa Spider la Giulia, cioè un modello più grande dell'attuale Giulietta, che peraltro, è stato già detto, verrà prodotta negli Stati Uniti. Quindi è un po' un paradosso che il marchio Alfa Romeo Fiat abbia deciso sì di rilanciarlo, ma con una produzione che in parte crescente verrà effettuata al di fuori del nostro paese. E quindi appunto dovrebbe essere il ponte e il volano per l'Alfa Romeo, oltre che con la Giulia, con questa che deriva un po' dall'architettura dell'MX5. L'investimento, cioè quanto varrà l'accordo, si sa già. Non è stato detto, che appunto è un accordo produttivo. Credo che i volumi dovrebbero essere attorno alle 20.000 unità per quanto riguarda Alfa Romeo. E naturalmente va aggiunta una cosa, che il comunicato di oggi parla di possibili ulteriori cooperazioni in Europa. In Europa Mazda non ha stabilimenti, potrebbe quindi produrre qualcosa magari, quindi con un accordo inverso, in una delle fabbriche Fiat. È tutto ancora da definire, anche perché tra l'altro ricordiamo che Mazda non va benissimo, ha chiuso in rosso l'anno scorso anche per i problemi produttivi legati al terremoto. È un costruttore di medie dimensioni che comunque ha bisogno di un partner, quindi potrebbe in effetti essere utile per entrambi un approfondimento della cooperazione. E speriamo che, se ci dovesse essere un accordo anche per produrre in Europa, gli stabilimenti Fiat siano quelli italiani, lo dico da italiano, e non quelli serbi o polacchi, con il massimo rispetto per la Serbia e per la Polonia. Grazie Andrea Malan per questo aggiornamento. Torniamo invece con Guido Maurino, al di là di banche, Pirelli, Parmalat, DST, Microelectronics e Fiat. Abbiamo visto oggi deboli anche tutti gli energetici, Guido, che di solito ogni tanto hanno un atteggiamento anticiclico, invece Eni meno 3,5%, giusto per citare il titolo principale. Sì, deboli Enel meno 2,60, così do. Deboli gli energetici anche perché il prezzo del petrolio, sui timori di una recessione, continua a scendere. Il WTI cede il 2% ed è sui $90 al barile. Hanno fatto un pochettino meglio invece titoli considerati difensivi come le utilities, per cui A2A meno 0,35%, Terna meno 1,4%, che considerando la giornata di borsa, insomma, significa sostanzialmente reggere. Allora, i migliori e peggiori nella giornata, vi do anche altri titoli, perché in effetti oltre ai bancari, a Pirelli, a Parmalat, a Fiat Industrial, però c'è Camion e Trattori, perde 5,70, di Assori in meno 5,20, Ansaldo CTS meno 6,20, di Parmalat abbiamo detto Saipem meno 4,90, Telecom meno 4,80 e ancora Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi, meno 4,20%, Tenaris meno 3,80, Exor meno 3,70%, chiudiamo con Autogrill meno 3,4% e Mediaset meno 3,2%, come Atlantia e Azimut. Migliori e peggiori in assoluto: Premafin più 22,95% e Meridiana più 16%. Sembra la fotocopia di ieri questa, Guido. Sì, diciamo che la galassia Ligresti continua ad attirare attenzione, in particolare proprio in questi minuti dovrebbe tenersi il CDA di Premafin, che dovrà dire cosa ne pensa della proposta di Unipol ed eventualmente mandare alla compagnia bolognese le sue deduzioni definitive. Oggi su questa speculazione Premafin ha ancora guadagnato molto, mentre Fonsai ha fatto più 0,60 e Milano Assicurazioni ha ceduto leggermente, anche perché le ultime indicazioni darebbero appunto Milano Assicurazioni come forse esclusa dall'aggregazione con Unipol, proprio perché certo, ieri Consob ha detto che ci vorrebbe un'OPA sulla Milano Assicurazioni, per cui una delle ipotesi è che venga esclusa almeno inizialmente dall'aggregazione. Il peggior titolo è Trevi Finanziaria, meno 9%, SNAI meno 8% e Camfin meno 7,71%. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere sulle 24 ore, traffico, poi restiamo in tema di borsa perché vorrei occuparmi di questa vicenda paradossale di Facebook. C'è una class action dei risparmiatori americani che hanno comprato il titolo, che sta perdendo a bocca di barile oltre il 30% di calo, e accusano le banche che l'hanno collocato a quel prezzo. 349-238-6666 per i vostri sms. Traffico. Focus Economia. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono, foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa, e non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Non mi sento più le gambe. Lo so, anch'io sono emozionatissimo, ma guardo. Sì, sarebbe una cosa esclusiva. Dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina, come essere pizzicati. Sì, mi piace. Come un Final Club, ma qui siamo noi i presidenti. Gli dissi che mi sembrava geniale. Una grande idea. Non c'era nessun hackeraggio. Le persone stesse avrebbero fornito foto e informazioni. E gli iscritti avrebbero potuto invitare o non invitare altri amici a iscriversi. In un mondo in cui la struttura sociale era tutto ciò che contava, era l'idea del secolo. Era un progetto grosso. E avrebbe dovuto scrivere decine di migliaia di righe di codice. Perciò mi chiesi perché si fosse rivolto a me e non ai suoi compagni di stanza, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, che erano programmatori. Ci servirà un minimo per noleggiare i server e metterlo in rete. Ecco il perché. Propose condizioni? Sì. Dividiamo, 70-30. 70 a me, 30 a te, che metterai $1,000 e ti occuperai della parte economica. Sei il direttore finanziario. E lei disse? Io dissi, facciamolo. Eh sì, questo era un passaggio del film The Social Network 2010, David Fincher, bellissimo film secondo me, perché spiega anche quanto in America comunque quando si ha un'idea sia facile svilupparla, un po' come in Italia, no? Vabbè. Ma al di là di questo, il Facebook, che doveva essere il collocamento del secolo, no? Ha 900 milioni di utenti, 21 milioni in Italia. Il valore del titolo fissato prevedeva 104 miliardi di dollari, cioè quotava 103 volte gli utili dei 12 mesi contro le 60 volte del debutto di Google, che già era stato un debutto bello potente, però stavolta si è deciso di alzare l'asticella. No, mettiamo un prezzo per il collocamento di Facebook che rappresenti sostanzialmente 103 volte gli utili. È un po' ambizioso, ma in realtà che cosa è successo? È successo che il titolo, dopo pochi minuti che era un po' risalito, non ha mai, fino a $42 per azione, quotato a $38 per azione il titolo, è salito fino a 42 e poi la discesa, è arrivato a toccare i $31, meno 26%. Ma qui l'accusa è un'altra, l'accusa è sostanzialmente che tutta l'operazione con questo livello di prezzo sia stata organizzata dalle banche collocatrici del titolo, e in primo luogo Morgan Stanley, che aveva il ruolo di leader, e di aver rivelato queste banche soltanto ad alcuni investitori privilegiati, che in realtà durante la fase di collocamento del titolo erano state riviste le previsioni su Facebook e anche rivisti i ricavi del social network. Quindi da un lato alcuni hanno avuto informazioni che altri non avevano, dall'altro comunque se ben visto la parcella per Morgan Stanley è stata di 20 milioni di euro. I dubbi in questo momento si concentrano soprattutto sulla crescita pubblicitaria del social network, chiaramente vive di questo. La pubblicità su Facebook ha toccato i 3 miliardi di euro, e secondo molti analisti un valore ragionevole per la società è quasi la metà di quello che è stato il valore di borsa, cioè 60 miliardi di euro. Anche perché lo scorso 9 maggio la società ha consegnato alla SEC, che è la Consob americana, un documento in cui ammette vagamente, non in maniera così netta, che mentre gli utenti di Facebook sono destinati a crescere, non altrettanto capiterà al raccolte agli inserzionisti. Abbiamo qualche minuto, forse, no? Beh, perché volevo ancora ricordare una cosa. A causa dell'aumento delle connessioni tramite smartphone, probabilmente gli utenti privilegieranno questa cosa. Lì le pubblicità sono quasi assenti. Allora, Mario Platero, corrispondente dagli Stati Uniti per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Mario, hai 3 minuti per dirci quanto sta montando la polemica in America, perché la class action non sarà mai vista a 3 giorni dal debutto. Mario. Sì, allora Sebastiano, guarda, sono in questo momento davanti proprio al Nasdaq. C'era stato un incontro poco fa con un gruppo di azionisti che volevano spiegare la loro causa, la loro azione contro Morgan Stanley, contro Mark Zuckerberg, dall'altra parte c'è anche una causa contro lo stesso Nasdaq. Insomma, è stato un disastro. Un'operazione che in qualche modo era annunciata come un'operazione difficile. Vorrei ricordare un paio di cose. Warren Buffett, una settimana, 10 giorni prima, aveva lanciato un messaggio. Aveva detto che secondo lui si trattava di quotazioni veramente molto molto gonfiate. Ecco, quello che è successo è che il mercato si è fidato di Morgan Stanley, il mercato si è fidato di quel prezzo di collocamento, e semplicemente perché tutti guardavano a collocamenti passati in cui titoli di questo genere facevano poi dei multipli straordinari nel momento in cui venivano quotati, anche il 50 e 60% nel giro di pochi mesi. Ecco, la situazione non è stata così, ma il fatto grave è che c'è stato il Nasdaq che non ha funzionato da una parte, e gli stessi analisti di Morgan Stanley che addirittura un giorno prima avevano concluso che forse le prospettive di questo titolo non erano così ottimistiche come sembravano essere dal prospetto che circolava tra gli investitori. Quindi è una situazione grave. Grave. E anche un'inchiesta, è stata aperta un'inchiesta anche al Senato, la Commissione bancaria al Senato poco fa ha annunciato che vuole fare delle audizioni, quindi sta montando e continuerà a montare. Mi sembra anche di aver capito che ci sia anche un'accusa di informazioni riservate trasmesse solo ad alcuni investitori, cioè che i dubbi che il collocamento a quella cifra fossero troppo alti erano venuti dentro Morgan Stanley, ma anche da altri operatori. In realtà sembra che queste informazioni se ne siano tenute tra virgolette i soliti noti, ho capito bene Mario? Quello che succede è che nel momento in cui l'analista di una banca manda in giro il suo rapporto, va in prima battuta ai clienti della banca. Questa è una cosa di cui mi sono occupato in passato, perché secondo me è una forma di insider trading, perché poi questi analisti muovono il mercato. Ma cosa succede? Che i clienti della banca hanno accesso a questa informazione prima degli altri. È successa praticamente la stessa cosa. Ti voglio segnalare un altro elemento, mi ricordo che ne parlai proprio in quei giorni, c'era una grande attività su Twitter, l'ho segnalato immediatamente, ma cosa è successo? Che Goldman Sachs, che era uno degli underwriter con Morgan Stanley e uno degli investitori, come sai aveva investito una gran quantità di denaro quando Facebook era ancora privata, aveva annunciato il giorno prima che avrebbe venduto tutta la sua quota. Ecco, allora... ecco, come sappiamo, quando Goldman Sachs si muove in quella direzione, per storie passate ben conosciute, c'è da stare molto attenti. Ma alla fine gli investitori non hanno voluto vedere questi. Sì, allora su questo hai ragione, perché c'era anche chi non ha voluto vedere, ha detto no, tanto quello è un bellissimo titolo, però qui ci ritroviamo a distanza di anni a commentare sempre chi ha accesso alle informazioni, la famosa asimmetria informativa, e a commentare anche un peccato capitale che a nostro avviso ci ha portato di fondo in questa crisi, che si chiama avidità. Nel salutare Mario Platero faccio ascoltare anche un pezzo mitico, era un po' che non lo mandavamo, è il primo Gordon Gekko, prima maniera sull'avidità. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America.